questo discorso sull'ombra, che cioè, è una cosa un po' particolare, no? Parlare di un oggetto fisico così concreto e poi l'ombra. l'ombra di una cosa così variabile anche, che non si riesce Ma è a appunto, cioè, catturare. ogni corpo in natura ha comunque ombra, cioè nessuno di noi è presente su questa terra senza ombra, e quindi l'ombra. È qualcosa che dice che sei reale, ci Per me sei. sì, per me ha corpo l'ombra forse, e quindi in un qualche modo anche ciò che non vediamo fondamentalmente ci segna e rimane, per cui è questo, anche questo gioco, nel senso, perché io ho presentato questi oggetti, ad esempio, in una struttura, era un cubo grande e fondamentalmente non si vedevano gli anelli, ma si vedeva solamente la loro ombra. Per cui io effettivamente quello che ho mostrato all'interno di questa manifestazione era l'ombra e non gli oggetti, dicendo che sono anelli. Quindi la tua ombra è la tua opera, per questo non vuoi farti vedere, capito?